Perfetto giorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Eccoci cari ascoltatrici e cari ascoltatori, questo è il podcast di Effetto Giorno, al microfono come sempre c'è Simone Spezia, in regia oggi Paolo Corleoni per la parte tecnica. Abbiamo qualche problema con i podcast in questi giorni, non solamente noi, ve ne sarete accorti, un po' tutte le trasmissioni di Radio 24, ma abbiamo appena cambiato il nostro sito internet www.radio24.it, che per inciso vi invito ad andare a visitare, dirci che cosa ne pensate. Potete tra l'altro iscrivervi anche tramite social network e commentare direttamente sulle nostre pagine. Abbiamo, vi dicevo, fatto nascere il nuovo sito e quindi, come sempre in questi casi, qualche problema tecnico, qualche rallentamento nella fase dell'implementazione si verifica. Insomma, lavorate tutti, non vi devo raccontare io che cosa succede in questi casi e in queste situazioni. La puntata di oggi, il podcast di oggi, non può che iniziare dall'inchiesta sulle tangenti, la nuova inchiesta sulle tangenti che va a toccare, o almeno fa emergere, anche il nome di Massimo D'Alema, che riguarda una coop rossa del Modenese, un sindaco del PD di Ischia, e per l'economia non può che partire da qua. Io credo che sia un elemento che ci dice che questa fase tende al positivo e quindi è sicuramente un buon segno. È la voce del ministro del lavoro Giuliano Poletti, che commenta i dati sulla fiducia, quella delle imprese ai massimi dal 2008, quella dei consumatori ai massimi dal 2002. Sono andate bene tra l'altro anche le aste dei titoli di Stato questa mattina. 7 anni e 5 mesi per arrivare a un esito che si conosceva già, per me sono davvero troppi. Così Raffaele Sollecito e la sua conferenza stampa ad un paio di giorni dall'assoluzione, insieme al suo avvocato Giulia Bongiorno, appunto, ha raccolto i giornalisti per raccontare quello che pensa dopo questa assoluzione. Può succedere ad un pilota militare una situazione del genere? Io le dico al 1000 per 1000, assolutamente no. Se mi fa la stessa domanda per un pilota civile, io le dico è estremamente improbabile. E Manfredo Di Stefano, che è brigadier generale, vice caposervizio generale dell'aeronautica militare, per quanto riguarda la sanità, la salute, gli abbiamo detto: ma sente una cosa, ma com'è possibile che un copilota della Lufthansa, con un distacco della retina, forse un distacco della retina, sicuramente con i problemi di depressione che aveva, insomma, possa salire su un aereo nonostante un certificato medico? È stato vietato che chi e ha avuto condanne per mafia non può iscriversi, chi ha processi in corso per mafia non può iscriversi. Monsignor Luigi Renzo, vescovo di Mileto, Tropea, Nicotera, sapete come vanno le cose quando ci sono delle processioni in alcuni paesi della Calabria, che si fa l'inchino alla casa del boss, oppure chi fa parte dell''ndrangheta cerca di trovarsi là, di trasportare lui la statua per far vedere che è importante. Ebbene, sono arrivate delle regole più stringenti. Iniziamo, come si diceva, dalle tangenti, al nuovo caso dei tangenti, e Laura Viggiano ci racconta che cosa è successo. Sì, buongiorno. È accusato di corruzione il sindaco di Ischia Giuseppe Ferrandino, arrestato con altre 10 persone, uomo del PD e presidente dell'ANCI Campania, è indagato nell'ambito di una inchiesta della Procura di Napoli su tangenti pagate per la metanizzazione dei comuni dell'isola ad opera della CPL Concordia, società modenese indagata e indicata dai magistrati napoletani tra le più antiche cooperative russe, che opera a livello internazionale con 70 società controllate e collegate in tutto il mondo. Si tratta di un gruppo cooperativo multiutility che si occupa di energia in tutti i suoi aspetti. L'inchiesta, cominciata nel 2013, ha portato alla luce, secondo l'accusa, un sistema di corruzione basato sulla costituzione di fondi neri in Tunisia da parte della CPL Concordia, con cui retribuire pubblici ufficiali per ottenere favori nell'aggiudicazione di appalti. Magistrati, per delineare il comportamento della CPL Concordia, hanno fatto riferimento nell'ordinanza ai rapporti della società con fondazioni e politici, in particolare con Massimo D'Alema, che viene chiamato in causa in una delle intercettazioni agli atti da Francesco Simone, dirigente della cooperativa arrestato, che sottolinea la necessità di investire nella Fondazione Italiani Europei, dove D'Alema sta per diventare commissario europeo, dice, in quanto D'Alema mette le mani nella merda, come ha già fatto con noi, e ci ha dato delle cose, sostiene Simone. In questo contesto il primo cittadino di Ischia avrebbe ottenuto l'assunzione del proprio fratello Massimo Ferrandino quale consulente della CPL Concordia e la stipula fittizia di due convenzioni che prevedevano l'impegno della CPL Concordia ad erogare 330.000 euro all'albergo di proprietà della famiglia del sindaco. Le indagini condotte dai carabinieri del nucleo tutela ambiente hanno portato a contestare a vario titolo i reati che vanno dall'associazione per delinquere alla corruzione anche internazionale, dalla turbativa della libertà degli incanti al riciclaggio, all'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Ovviamente le prime reazioni politiche sono già arrivate ed è arrivata anche una prima reazione dello stesso Massimo D'Alema, come avete sentito, coinvolto almeno a sentire le intercettazioni. È proprio così, Simona, un'inchiesta, quella di Ischia, destinata ad animare il dibattito politico delle prossime ore a partire dalla direzione del Partito Democratico, ma a difendersi in prima persona in questi minuti proprio D'Alema, che spiega certamente i rapporti con CPL Concordia, ma è un rapporto del tutto trasparente che non ha comportato né la richiesta da parte loro né la messa in opera da parte mia di illeciti di nessun genere. Non ho avuto alcun regalo e nessun beneficio personale. Così quindi D'Alema, che accusa anche la fuga di notizie. Dal governo a parlare invece il ministro del lavoro Poletti, che dice: credo si debba ribadire la valutazione che facciamo sempre in questi casi, se ci sono delle responsabilità vanno valutate dalla magistratura e se ci sono delle persone che hanno sbagliato è giusto che paghino secondo la legge del nostro paese. Dichiarazioni queste molto caute. Ad andare invece giù duro sono inevitabilmente le opposizioni. Partiamo dal Movimento 5 Stelle. Arrestato il sindaco di Ischia Ferrandino del PD, scrive su Facebook Di Maio, che aggiunge: il partito di Renzi lo aveva candidato da indagato anche alle elezioni europee, a dimostrazione che il loro ridicolo garantismo fa acqua da tutte le parti. Quindi il leader della Lega Nord Salvini, questa volta su Twitter: tangenti, cooperative, camorra, corruzione, in galera il sindaco di Ischia, PD, altre 9 persone, compagni che sbagliano e Renzi, domanda Salvini. E il premier, secondo fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe replicare come anticipato proprio nella direzione PD del pomeriggio. È tutto, linea allo studio. Il fronte politico più puro vede ancora lo scontro interno al Partito Democratico sulla legge elettorale. Una direzione del PD sull'Italicum che probabilmente potrebbe chiudersi anche questa volta senza il voto della minoranza, come avviene da un po' di tempo a questa parte. Lancia l'appello Pippo Civati, si rivolge a Rosi Bindi, a Pierluigi Bersani, Alfredo da Torre, Stefano Fassina, Francesco Boccia. Non partecipiamo al voto, dice Civati. La trasformazione della direzione in plebiscito è un out-out, non aiuta affatto e di per sé costituisce una risposta definitiva alle richieste di confronto venute da più parti. In alternativa quindi Pippo Civati chiede un unico intervento che rappresenti la minoranza per definire una volta per tutte il campo proprio della minoranza. La proposta di Civati però viene bocciata da Alfredo da Torre, che vuole partecipare alla discussione e dice: il risultato sarebbe di spostare il vero confronto in Parlamento. Da Torre spiega di avere anche pronti gli emendamenti all'Italicum. Per la segreteria PD invece sarà una direzione come tante. Matteo Renzi, ricordiamo, ha aperto sulle modifiche costituzionali al Senato non elettivo, ma blinda ancora l'Italicum nel timore che la legge elettorale non possa passare un ulteriore passaggio al Senato. Siamo all'estero, ma restiamo collegati ai temi politici, perché siamo all'indomani di un voto molto importante in Francia, il voto per i dipartimenti, grosso modo quello che corrisponde alle nostre province. I segnali quali sono che arrivano da questo voto? Sono che i socialisti sono messi sempre peggio, che Sarkozy si riprende l'UMP e si riprende anche il dominio della scena pubblica, della scena politica, ed evidentemente già guarda all'Eliseo. Il Front National di Marine Le Pen cresce dal punto di vista dei consensi, ma non riesce a guadagnare nemmeno un dipartimento, evidentemente arginata anche dallo stesso Sarkozy. Il corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, Marco Mussanet. Sì, hai riassunto bene, direi che l'elemento politico generale, diciamo, che ci interessa di più in qualche modo è la vittoria netta, nettissima di Sarkozy, ricordiamo che quando l'ex presidente ha deciso di scendere nuovamente in campo e di tornare a guidare il partito di destra UMP, c'erano molti dubbi sulla sua capacità in realtà di ritornare da grande protagonista sulla scena. In realtà ha dimostrato a 4 mesi dall'assunzione della presidenza di UMP di essere ancora appunto il grande animale politico che ha dimostrato di essere in passato. La vittoria è molto netta e sicuramente lo lancia verso le presidenziali del 2017 come grande favorito. E restando all'estero, è una giornata importante quella di oggi, o meglio sono giorni importanti, sono quelli che dovrebbero portare ad un accordo sul nucleare iraniano, un punto di sbocco fondamentale per una serie di tensioni politiche e geopolitiche, un accordo che però non piace ad Israele. L'inviato del Sole 24 Ore, Ugo Tramballi. Ma sembra di sì, la questione fondamentale ancora che divide le parti è quella dell'uranio arricchito dell'Iran, cioè quello ottenuto attraverso le 10.000 centrifughe che dovrebbero diventare circa 6.000. L'uranio arricchito che serve, è necessario per poi fare la bomba. La questione però della questione è appunto fare in modo che l'Iran ceda questo uranio arricchito per esempio alla Russia, lo lasci lì alla Russia, affinché nel caso in cui fallisse la trattativa e soprattutto una volta raggiunta la trattativa l'Iran cambiasse idea, si allungherebbero i tempi perché possa costruire poi una bomba. Quindi in questo, il nodo in sostanza è fare in modo che se l'Iran cambiasse idea o tradisse gli accordi, avrebbe come minimo un anno di tempo prima di riuscire a costruire la bomba. Quell'anno di tempo è necessario per la comunità internazionale per bloccare l'Iran in un altro modo. Ma anche questa, la questione della questione, è rilevante rispetto alla questione delle questioni, che è quella che tutte le parti hanno la necessità sempre più forte di trovare un accordo. È un accordo che poi deve essere un accordo politico, perché poi in realtà il negoziato continuerebbe fino a luglio, perché oramai c'è questa esigenza di voler raggiungere un compromesso. L'Iran oramai ha un programma nucleare e l'importante è renderlo chiaramente, definitivamente, in maniera trasparente, il programma assolutamente civile. Naturalmente, fermo restando che nel mondo continuano a esistere 16.400 bombe atomiche. E torniamo sulla vicenda dell'Airbus della Germanwings, precipitato durante il volo tra Barcellona e Düsseldorf, 150 le vittime, lo ricordiamo, sotto accusa il copilota, a quanto pare depresso, secondo le ultime indicazioni che stanno arrivando, e che forse avrebbe avuto addirittura un distacco della rete. Nel tema qua sono i controlli per i piloti che salgono sugli aerei e che appunto si mettono ai comandi, controlli sia psicologici che fisici. Ci sono delle regole che vigono a livello europeo, ce lo ha spiegato Manfredo Di Stefano, che è brigadiere generale, vice caposervizio generale dell'aeronautica militare, al quale la prima domanda che abbiamo fatto è: ma com'è possibile che non parta una comunicazione dai medici alla compagnia aerea nel momento nel quale la situazione è così difficile, nel momento nel quale le tendenze suicide possono apparire evidenti? Sentiamo. Mi rendo conto che sono domande estremamente importanti ora per l'opinione pubblica, ma innanzitutto mi dia la possibilità di poter esprimere il mio cordoglio personale e quello dell'aeronautica militare per questo grosso evento che ci ha colpito tutti quanti. Certo, nell'immaginario è una cosa estremamente grave e seria questa. C'è da dire che episodi del genere non si verificano spessissimo, perché se si va indietro nel tempo non sono delle cose molto rare. E ci mancherebbe altro. La domanda che lei mi fa è una domanda specifica: come si fa? E noi abbiamo il compito di visitare i piloti, i civili e i piloti militari. C'è da dire una cosa fondamentalmente, che quello che noi facciamo per i piloti militari è estremamente diverso da quello che invece viene fatto per i piloti civili. Perché? Perché i piloti civili devono seguire degli accorgimenti dal punto di vista sanitario, devono seguire delle visite che sono state dettate a livello europeo e che da un'agenzia che si chiama EASA, e che poi sono state recepite dalla nostra agenzia delle aviazioni civili, dall'ENAC, la quale prevede una certa serie di visite. Ora, se lei mi fa la domanda, può succedere ad un pilota militare una situazione del genere? Io le dico al 1000 per 1000, assolutamente no. Se mi fa la stessa domanda per un pilota civile, io le dico è estremamente improbabile. Perché estremamente improbabile? Perché il pilota viene da noi, viene visitato, viene sottoposto a degli accertamenti che non decidiamo noi, ma che vengono decisi sempre da questa autorità europea. Sì, ma al di là del tipo di accertamenti, mi scusi, a me quello che interessa è proprio la trasmissione, cioè il passaggio del messaggio dal pilota, come dire, o dal medico, per così dire, o da chi lo visita alla compagnia aerea. Questo allora, avviene c'è dire, come? C'è da dire inizialmente una cosa. Il pilota ha l'obbligo di comunicare ogni variazione del suo stato di salute. Lui firma un certificato, nel caso specifico ha firmato un certificato falso. Il certificato che lui ha ottenuto dal medico, essendo un medico privato, lui, medico privato, non è tenuto a trasmetterlo alla compagnia. Pertanto è compito dell'aeromedical examinator, ossia del medico che deve sottoporre a visita questa persona, avere quella sensibilità, visto che la legge non gli pone in capo un accertamento di carattere psichiatrico, è la legge che ci dice questo, però noi qui, i nostri istituti medici legali, e nel corso della visita di medicina generale siamo particolarmente attenti ad un colloquio che possa farci capire se ci sono o meno problemi di carattere psichiatrico. In quel caso la segnalazione la potete fare? No, in quel caso non solo la possiamo fare, in quel caso noi non diamo l'idoneità fin tanto che la persona non viene sottoposta a visita da uno specialista, perché noi qui abbiamo a disposizione sempre uno specialista in psichiatria, il quale lo valuta, e a seconda della valutazione, c'è da dire due cose, viene dato un certificato al pilota e un certificato viene trasmesso alla compagnia del pilota, ma le dirò ancora di più, che se il pilota dovesse essere un pilota straniero, noi comunichiamo l'esito della visita anche alla compagnia straniera di questo pilota che viene a visita da noi. Siamo all'economia. La voce l'avete sentita in apertura, quella del ministro Poletti che commenta i dati sulla fiducia. Dati sulla fiducia buoni, ce li riassume Anna Marino. Una carrellata di buone notizie dall'Istat dopo i dati positivi sul lavoro diffusi dal Ministero pochi giorni fa. Quello sulla fiducia delle imprese sui massimi da luglio 2008 è un indice indeciso miglioramento a marzo e sale a 103 dal 97,5 di febbraio. La crescita riguarda tutti i settori, in particolare la manifattura, ordini e produzione, che passa a 103,7 da 105, segnando un record da giugno 2011. Quello sulla fiducia dei consumatori si attesta sul livello più alto da quasi 13 anni, non era così da maggio 2002. È una conferma, ma ci vuole prudenza, secondo il ministro del lavoro Giuliano Poletti, alla quinta edizione di Tutto Lavoro organizzata dal Sole 24 Ore. La conferma di un trend che da un po' di mesi si è attivata, e quindi il fatto che questa abbia una continuità, anche se noi sappiamo che le cose in coda ad una crisi tendono a non essere stabilizzate. Occupazione in crescita, ma potrebbe essere necessario trovare altri soldi per il bonus assunzioni. E se nel primo bimestre del 2015 c'è stato un ritmo di 150.000 assunzioni a tempo indeterminato al mese, da marzo in poi la velocità potrebbe salire. Per il ministro Poletti non si tratta di dati dopati dall'incentivo previsto dalla legge di stabilità, e con una battuta si augura perciò un aumento del budget previsto per il bonus assunzioni. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ospite di Giovanni Minoli a Mix 24 c'è stata Marcella Panucci, direttore generale di Confindustria, per parlare anche delle riforme di Renzi e di quello che ritiene, insomma, se al momento basta o c'è ancora da fare. Senta, un anno fa, proprio qui, a Mix 24, il presidente Squinzi aveva detto che la bisaccia del governo Letta era vuota. E Letta è andato a casa. Lei che voto dà oggi la bisaccia di Renzi? Ma i voti si danno in genere alla fine di un percorso, quindi aspettiamo a darglielo. Però direi che lui ha fatto delle cose molto importanti, altre cose molto molto importanti le ha avviate, penso alla riforma costituzionale. Noi lo esortiamo ad andare avanti con determinazione. Ecco, io glielo chiedo però perché Squinzi continua a dire: qualcosa è stato fatto, tanto è stato annunciato. Insomma, sono due bisacce diverse, la sua e quella di Squinzi, no? No, stiamo dicendo la stessa cosa. Ha fatto delle cose importanti, penso alla riforma del mercato del lavoro, al taglio del cuneo fiscale, sono battaglie che abbiamo fatto per anni e finalmente vedono la luce. Tante altre vanno fatte, però su questo lo ha detto anche Draghi, attenzione, noi siamo in uno stato di grazia per condizioni esterne, ma se non facciamo le riforme nello stato di grazia, insomma, finirà, ecco. Siamo alla cronaca, iniziando da Raffaele Sollecito e dalla sua conferenza stampa a due giorni dall'assoluzione. Andrea Viali. Sì, è così. Simone dunque ha deciso di affrontare le telecamere e i microfoni per raccontare la sua verità, il modo in cui ha vissuto questa lunga vicenda giudiziaria conclusa con la sua assoluzione. Raffaele Sollecito, mi sento come un sequestrato tornato alla libertà dopo 7 anni e 5 mesi. Sono stato arrestato senza nessuna prova, mi è sembrato tutto surreale, ora non chiamatemi più assassino, sono state le sue parole appunto in conferenza stampa. La mia famiglia è stata fatta a pezzi per nulla, ha detto amareggiato il ragazzo, che pur ringraziando i giudici che lo hanno assolto, che hanno creduto alla sua innocenza, non ha nascosto i timori sulla giustizia vissuti durante questo lungo processo. Ma sentiamo le sue parole. Alla luce di questo esito posso dire che il sistema alla fine ha funzionato, ma 7 anni e 5 mesi per arrivare a un esito che si conosceva già, fattuale, che si conosceva già da anni, per me sono davvero troppi. Sollecito poi ha detto di aver sentito al telefono ieri Amanda Knox, che lo ricordiamo, l'americana Amanda Knox assolta con lui. Si è detto anche dispiaciuto per il fatto che i genitori di Meredith Kercher siano rimasti delusi dalla sentenza della Cassazione. Un responsabile del delitto c'è e si chiama Rudy Guédé. Hanno spiegato invece i suoi legali che, una volta lette le motivazioni della sentenza della Cassazione, valuteranno se chiedere o meno un risarcimento per ingiusta detenzione. Simone. Infine, la voce che vi facciamo sentire all'inizio, quella di Monsignor Luigi Renzo, vescovo di Mileto, Tropea, Nicotra. Siamo in provincia di Vibo Valentia. Che cosa succede? Che c'è questa tendenza degli uomini dell''ndrangheta a farsi, a rappresentarsi, per così dire, ad essere presenti fortemente durante le processioni, in particolare durante la Settimana Santa. In alcuni casi si verificano gli inchini, ossia la statua si rivolge verso la casa del boss, in altri casi c'è semplicemente la voglia di essere là e di portare la statua per dimostrare che si è potenti, che si è forti. Ebbene, Monsignor Luigi Renzo ha varato delle regole più strette, più stringenti per evitare che tutto questo avvenga. Ecco quali sono, ce lo ha raccontato. Ma intanto chiarisco subito che non si tratta di inchini, questa qui nel Libonese problemi di inchini non ce ne sono. C'è stato il caso di una situazione qua vicino, ma non c'entra. Il regolamento per le processioni si muove per altre motivazioni. Questo intervento è stato determinato e preceduto già dal 2009 da un direttorio per le feste religiose, che ha avuto lo scopo di mettere un po' di ordine, di mettere dei paletti sul modo come vengono vissute le manifestazioni religiose, soprattutto quando ci sono forme esterne, tipo le processioni o altre forme. E che cosa si prevede in sostanza? Il problema forse che riguarda questa diocesi era legato ai portatori delle statue più che agli inchini, perché gli inchini non se ne fanno, ma per quello che riguarda i portatori si verificava nel passato che era occasione per personaggi dell''ndrangheta di approfittare per una visibilità, per mostrarsi. Naturalmente già nel direttorio di anni fa ero intervenuto in questo senso e quindi era iniziato già un percorso di purificazione per fare in modo che le processioni mostrarsi per darsi importanza, no? Questo era il concetto. Vedere, ecco, ci siamo, noi siamo al di sopra, quindi quasi poteva sembrare una sfida allo Stato, l'antistato contro lo Stato. Ma ovviamente tante cose erano esagerate, però effettivamente c'era questo riferimento. Qualche io già inizialmente ero intervenuto per regolamentare questi aspetti. E adesso che cosa ha fatto? C'è l'estrazione a sorte di chi porta la statua, mi sembra di aver capito. Sì, c'è l'estrazione per i portatori, cioè per evitare che ci potessero essere dei calcoli, ovviamente è stato dato ai parroci indicazione che all'inizio della Quaresima chi avesse intenzione di portare le statue di Pasqua, soprattutto quelle della domenica di Pasqua, la cosiddetta affrontata in particolare, si segnalassero, e ovviamente chi può segnarsi, è stato dato lì un regolamento ben preciso per cui è stato vietato che chi ha avuto condanne per mafia non può iscriversi, chi ha processi in corso per mafia non può iscriversi, chi appartiene ad associazioni condannate dalla Chiesa non può iscriversi. Quindi ecco, questi sono stati un po' i paletti per fare in modo che i portatori fossero persone che vivono all'interno della comunità, che fanno un cammino di fede, e quindi è un modo anche per consentire alla comunità di riappropriarsi di momenti forti della propria identità religiosa. E ovviamente quelli che si sono segnati per portare le statue, la Domenica delle Palme, quindi è venuto ieri, pubblicamente in chiesa è stata fatta l'estrazione. E i portatori adesso sono alla porta della chiesa, visibili a tutti, appunto perché se ci fosse qualche situazione così incresciosa si può dare adito, modo alle forze dell'ordine di intervenire direttamente e impedire a queste persone, eventualmente approfittando della legge, che è il testo unico della legge della sicurezza, che consente, come per le manifestazioni sportive, a chi è inquisita, a chi ha certi problemi, un daspo per le manifestazioni religiose, più o meno, cioè, questo l'orientamento poteva essere questo, e quindi ovviamente hanno tutta la possibilità di intervenire pubblicamente e dire impedire a queste persone di avvicinarsi alla processione. E questo è un modo bello di collaborare con le forze dell'ordine. Noi facciamo la nostra parte. E loro fanno la loro. Esatto, la ringrazio. Ed è veramente tutto per il podcast di Effetto Giorno. Grazie per averlo scaricato. Andate a visitare il nostro sito www.radio24.it. Là potete iscrivervi, commentare le trasmissioni, commentare anche le dirette, volendo commentare sul blog tutto quello che volete e dirci quello che pensate. Lo potete fare anche via mail a effettogiorno@radio24.it. Ancora un grazie a Paolo Corleoni per la parte tecnica. Da Simone Spezia, una buona giornata, ci si risente alle 13.00.